Santa Maria, se di lassù mi puoi sentire, fammi piacere, aiutami tu. Santa Maria, io non so più che cosa fare, devo pregare, vuoi dirmelo tu? Ormai non ha bisogno di me, ormai è più felice con lui, vorrei che ritornasse, ma lei non tornerà. Aiutami tu. Ormai non ha bisogno di me, ormai è più felice con lui. Vorrei che ritornasse, ma lei non tornerà. Santa Maria, se almeno tu mi puoi sentire, non mi lasciare, aiutami tu.